Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Una folla in tripudio sta celebrando in uno stadio i suoi campioni. Non è la fine di una partita importante, non è stata vinta nessuna coppa, né un campionato nazionale. Si festeggiano i giocatori che in questo stesso stadio, nel corso di un decennio, hanno dato grandi soddisfazioni alla tifoseria locale. Siamo in Francia, a Nancy. Oggi si ricorda la stagione 1974-1975, la storica stagione nella quale la squadra della piccola città della Lorena ha vinto il campionato di seconda divisione. Una squadra ben organizzata, con alcuni giocatori di valore, tra cui ne spicca uno che con un occhio attento e preciso distribuisce palloni e organizza il gioco. Questo giovane giocatore debutta a Nancy a soli 17 anni e l'esordio lascia ben sperare per proiettarlo nell'elite del calcio. 3 gol segnati nella prima partita di Coppa di Francia. L'entusiasmo è alle stelle ed è contento anche il padre Aldo, figlio di emigranti italiani, che ha trovato nel piccolo paesino di Jeuf una stabile occupazione come professore di matematica. Ma anche Aldo ha il calcio nel cuore. Anche lui tenta la strada del professionismo, ma alla fine rinuncia. Tuttavia riesce a trasmettere a suo figlio l'entusiasmo per quello sport che catalizza l'attenzione dei bambini del vecchio continente. What a goal! Have a look at one of the greatest goals I've seen on this ground. That's deliberate. That's majestic. Sheer brilliance. That's all you can say about that piece of football from a talented, talented footballer. Absolutely unsavable. Absolutely magnificent. Forse è vero che ognuno di noi nasconde le proprie doti nel DNA e qualche volta riesce a trasmetterle ai propri figli. Calcio e matematica. Sono queste le passioni di papà Aldo. E a pensarci bene, il piccolo Michel sembra avere ereditato entrambe le doti, visto che il suo modo di giocare a calcio non è fisico, non si basa sulla forza, ma è frutto di un'attenta visione del gioco grazie alla quale riesce a far girare la palla e creare occasioni per sé e per i propri compagni. È elegante quando si muove sul campo e questa caratteristica lo accompagna per tutta la sua carriera. Il suo nome è Michel Platini. Michel Platini. Sono un appassionato del calcio, dunque mi piaceva giocare a calcio con Cuyon, che qua nella sala, sotto la tavola, giocare sempre a calcio perché mi piaceva giocare a calcio. Michel è un bambino vivace e passa la maggior parte del tempo libero a giocare al calcio. Lo studio è una necessità che però lo stesso Platini porta subito in secondo piano. Calcio e scuola. Quando ero stanco di giocare a calcio andavo a scuola. Dopo l'esordio in Coppa di Francia nel 1972, per Michel non è difficile conquistarsi un posto in squadra, anche se dopo un paio di partite di campionato, Platini subisce il primo di una serie di infortuni che lo costringono a un riposo forzato. Dopo sono arrivato a Nancy perché avevo 4-5 società che mi volevano a 16 anni e ho scelto Nancy, che era a 75 km di Jeuf, e qua dopo 2 mesi sono arrivato in Serie A. Il primo periodo della carriera di Platini è costellato da infortuni, anche gravi, che lo costringono a giocare poco per tutto il campionato. La fortuna però torna presto a sorridergli e il primo traguardo di valore arriva con la vittoria del campionato di seconda divisione nella stagione 74-75, con l'incredibile cavalcata del Nancy che raggiunge l'ambito traguardo per la prima volta. Michel è un attento regista che smista palloni su tutta la squadra e spesso si toglie la soddisfazione del gol. L'amore per la matematica, che sembra aver ricevuto in eredità da suo padre, lo trasforma in campo in un freddo calcolatore che con passaggi millimetrici e geometrie di gioco impossibili riesce a disorientare le più solide difese. Forse è proprio per questo motivo che quando subisce un fallo non è certo un fallo leggero. No, Michel era difficile da controllare, era un giocatore talmente semplice che non lo prendevi mai, era un giocatore che giocava la palla di prima. I ricordi di Tardelli, che è poi diventato suo compagno di squadra, descrivono lo stile di gioco di Platini. Una sua specialità sono le punizioni. Lui si allena di continuo e la palla, accarezzata dal suo piede, incomincia a girare come una trottola, diventando l'incubo dei portieri francesi. I movimenti che Platini compie nel battere una punizione sono aggraziati come quelli di una ballerina dell'Opéra di Parigi e spesso il portiere non riesce neppure a muoversi, impietrito nel vedere sbucare la palla da dietro la testa dei giocatori della barriera. su come abbia imparato a calciare le punizioni, Platini lo ha raccontato in un'intervista rilasciata alla televisione francese. Io non ho frequentato nessuna scuola di calcio da ragazzino. Giocavo per strada, con gli altri bambini, e la porta era la saracinesca di un negozio. Mi divertivo a mettere i bidoni dell'immondizia in fila e dovevo superarli senza toccarli. Poi con gli anni i bidoni sono diventati giocatori in carne ed ossa, ma per me c'era sempre quella saracinesca da colpire. La prima maglia blu della nazionale di Francia Platini la indossa nel 1975. Ma non è quella della nazionale maggiore, ci sono da assolvere gli obblighi militari e Michel fa onore al paese giocando nella nazionale militare e conquistando la qualificazione ai giochi olimpici. Ormai questo giovane giocatore comincia ad essere tenuto d'occhio dagli osservatori delle grosse squadre e la città di Nancy inizia a essere troppo piccola per il suo piede fatato. Wake up all the doctors, make the old people well. They're the ones who suffer and who catch all the hair. But they don't have so very long before their judgment day. So won't you make them happy before they pass away? A volte il destino scrive la stessa storia in luoghi diversi. Abbiamo visto un bambino francese dare i primi calci a un pallone per strada, senza scuole, allenatori, spinto solo dall'entusiasmo di chi ama il gioco del calcio. In un paesino della Polonia del Nord, a meno di 100 chilometri dal Mar Baltico, c'è un altro bambino dai capelli rossi che gioca a pallone per strada, sognando di imitare i grandi campioni. È un ragazzino forte, tutto muscoli, e si vede che ha talento. Ecco perché viene notato da alcuni osservatori e inizia a giocare nelle giovanili del Zawicza Bydgoszcz, per poi passare al Widzew Łódź, una delle squadre più prestigiose del campionato polacco. Ricordo un ragazzone di 1,80 m, orgoglioso dei suoi baffi rossi, un vero prussiano. Sembrava un soldato della cavalleria e come un cavallo correva su e giù per il campo. Sembrava instancabile. Antoni Piechniczek è l'allenatore della nazionale polacca che ha ben figurato nei mondiali del 1978 e del 1982. In quest'ultimo mondiale la Polonia incontra due volte l'Italia, prima nella gara inaugurale con un noioso 0-0, poi nella semifinale contro gli azzurri trascinati da Paolo Rossi, che infila due volte la porta dei polacchi. Il terzo posto conquistato poi contro la Francia è però il miglior piazzamento assoluto raggiunto dalla Polonia ai mondiali. Il ragazzino cresciuto in fretta nei quartieri popolari di una Polonia ancora governata dal regime comunista certo non immagina che quello che per lui è un semplice gioco sta per condizionare tutta la sua vita. Eppure in pochi anni, dalle strade polverose, passa a giocare negli stadi gioiello dell'orgoglio proletario, fino a vestire la prestigiosa maglia della nazionale ai mondiali di Argentina. Dietro a un paio di imperturbabili occhi verdi si nasconde una gran sete di vittoria e la voglia di dimostrare la grandezza del suo paese nello sport che da sempre unisce i popoli al di là delle barriere politiche. Il suo nome è Zbigniew Boniek. Zbigniew Boniek. Ero giovane, pieno di speranze, ma sapevo che non era facile arrivare a certi risultati. In Polonia il calcio era praticato a livello dilettantistico e certo non ti permetteva di guadagnarti da vivere. La speranza era quella di riuscire a metterti in luce per andare a giocare all'estero. Questa intervista rilasciata da Boniek alla televisione polacca contiene i ricordi di una vita dedicata a una grande passione, il calcio. Annunzio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Wojtyła. Il 1978 è un anno molto importante nella storia della Polonia. Karol Wojtyła, vescovo di Cracovia, viene eletto papa suscitando la sorpresa di tutti coloro che si aspettano l'elezione al seggio pontificio di un cardinale italiano. Tutta la Polonia è in festa e questo non è che l'inizio di un momento storico che porta la nazione a staccarsi da quella che viene chiamata la cortina di ferro. Nell'estate dello stesso anno, in Argentina si sono svolti i campionati del mondo di calcio, vinti non senza polemiche, dalla squadra biancoceleste, organizzatrice del torneo. Le polemiche riguardano una sospetta combine tra l'Argentina e il Perù, in quella partita che la stampa ha definito la mermelada peruana. L'Argentina batte 6-0 il Perù e grazie a questo risultato insperato supera il Brasile nel girone e si qualifica per le semifinali. La terza classificata del girone è proprio la Polonia, in cui gioca il 22enne Boniek, che ha così l'occasione di mostrare le sue capacità al mondo calcistico. Boniek ha sicuramente portato un aiuto fondamentale alla nazionale. Il nostro calcio è da sempre stato su un livello inferiore rispetto a grandi squadre come la Francia o l'Italia. Il nostro gioco si basava sul contropiede ed avere un giocatore come Zibi in grado di fare delle ripartenze eccezionali ci permise di risolvere a nostro favore più di una partita. Le parole del tecnico polacco Piechniczek sottolineano le caratteristiche fondamentali del gioco di Boniek: la forza fisica e la velocità, doti che gli permettono di correre per tutto il campo con la palla al piede e segnare con tranquillità. In Argentina debutta in nazionale anche Michel Platini, che però non conserva un buon ricordo di quei mondiali, come racconta in un'intervista ancora una volta per la televisione francese. Quando nella gara d'esordio Lacombe fece il gol all'Italia dopo solo un minuto, tutto sembrava volgere al meglio. Poi però la realtà fu diversa e la Francia venne eliminata al primo turno. I mondiali del 78 sono la prima occasione per Boniek e Platini di incontrarsi in una competizione internazionale. Nessuno dei due sa che questo loro primo incontro non è altro che un prologo a una fantastica avventura calcistica che si svilupperà negli anni successivi. Pas de témoin, je présume, juste la lune encore. Et ce trésor, cette colombe qui vous avait ralenti, vous l'avez posé dans l'ombre et l'ombre vous a reprise. Cuando tenemos ya 29 minutos del primer tiempo, 0-0, ataca la Argentina, atención por la derecha, se va metiendo Diego Maradona con Chamblay, ¡gol! ¡Lazo! ¡Impresionante, Maradona, amigos! ¡Tremendo gol, Reyes! ¡Qué impresionante cómo Maradona la paró con su pie, que lo vean! Un anno dopo la contestata vittoria del Mondiale da parte dell'Argentina, Michel Platini e Zibi Boniek hanno l'occasione di giocare per la prima volta nella stessa squadra. Allenata da Enzo Berzot, la squadra del resto del mondo, che raccoglie i migliori giocatori del Mondiale, sfida l'Argentina in una amichevole che sa tanto di rivincita per ridare credibilità al calcio. Boniek è sicuramente una delle sorprese dei Mondiali e la sua convocazione tra i 22 migliori giocatori del mondo ha inorgoglito un'intera nazione. Anche Michel Platini, che si sta affermando come una delle promesse del calcio europeo, viene notato dalla stampa internazionale. A Nancy, dove ha iniziato a giocare, i tifosi gli voltano però le spalle e lo fischiano durante le partite, ritenendolo uno dei responsabili del pessimo mondiale della Francia. L'ennesima frattura, che lo tiene fermo 6 mesi, lo convince ad accettare l'offerta del Saint-Étienne. La convocazione di Berzot viene vista quindi da Platini come un riconoscimento del suo impegno personale e lo aiuta a risollevarsi in un momento in cui tutto sembrava prendere una piega negativa. Quando nel giugno del 79 i giocatori selezionati da Berzot si ritrovano a Buenos Aires per preparare la partita contro l'Argentina, il destino fa sì che proprio Platini e Boniek dividano la stanza del ritiro. Francia e Polonia sono due nazioni lontane anni luce l'una dall'altra. La Francia è una potenza economica e militare e rappresenta uno dei principali nemici del blocco comunista di cui la Polonia fa ancora parte. È come se quella sera, nell'hotel del ritiro, un principe e un popolano debbano dividere lo stesso tetto. A dirla così sembrerebbe una cosa impossibile, ma il destino non ha tenuto conto di un aspetto molto importante. Il calcio è lo sport più democratico del mondo e pone al suo cospetto tutti i giocatori sullo stesso piano, eliminando le differenze economiche, politiche e religiose. Quella sera a Buenos Aires non ci sono due governi a confronto, ma due giovani ragazzi che condividono sin da bambini la passione per lo stesso sport e che si considerano uguali, compagni della stessa squadra. Eravamo molto giovani e per me era come vivere dentro un sogno. Quando incontrai Michel, io non parlavo la sua lingua né lui mi capiva, eppure ci fu un'intesa immediata e riuscivamo a capirci anche con poche parole. Era divertente. Quel breve incontro viene ricordato in modo significativo anche da Michel Platini, come ha raccontato in un'intervista rilasciata alla TV francese. Non capita tutti i giorni di ritrovarsi nello stesso campo di gioco con dei campioni come Zico, Rossi, Maradona. Ricordo benissimo la sera prima della partita, in camera con Boniek. Io sapevo che il calcio, come lo vivevano in Polonia, era ben diverso da come lo vivevo io in Francia. Eppure la complicità che si creò da subito mi mise di buon umore. La partita contro l'Argentina di amichevole non ha nulla. Anzi, in più di un'occasione l'arbitro ha il suo da fare per placare i giocatori innervositi dai falli che reciprocamente si scambiano. Però il livello del gioco è altissimo e i campioni in campo non deludono le aspettative. Boniek soprattutto sembra instancabile e corre dal primo all'ultimo minuto, suscitando l'ammirazione di tutti i giornalisti che lo incoronano come uno dei giovani campioni più promettenti del momento. Sico con Kals. Boniek recibiendo. Qué bueno este polaco. Centra. Sico. Para Causio. Toniño solo nell'aria. Centra la pelota y gol. A Torino, intanto, l'avvocato Agnelli sta guardando la partita. È affascinato da alcuni giocatori che stanno combattendo sul campo di gioco. C'è quel francese, che è bravissimo e com'è elegante. E poi c'è quel polacco che macina chilometri da una parte all'altra del campo. Stanno giocando accanto a Causio, Rossi e Tardelli e l'avvocato comincia a pensare ai prossimi acquisti per la sua Juventus. Destini incrociati. Destini incrociati vi porta oggi sui campi di calcio di mezzo mondo, dove stanno muovendo i primi passi della loro carriera due giocatori destinati a diventare grandi campioni, Michel Platini e Zibi Boniek. 4 anni dopo l'avventura in Argentina, Francia e Polonia si ritrovano di nuovo al Mondiale di Spagna del 1982. Entrambi però sanno che questa non è che la prima di una lunga serie di partite da giocare insieme, e questa volta sotto la stessa maglia. Pochi mesi prima, infatti, Platini ha firmato per andare a giocare a Torino, alla corte dell'avvocato Agnelli, che ricorda così il suo ingaggio. Diciamo che l'abbiamo preso per un pezzo di pane. Diciamo che ci abbiamo aggiunto molto caviale, ma se l'è meritato. Platini viene acquistato a un prezzo bassissimo per l'epoca, 250 milioni, ma il suo ingaggio è quasi il doppio. È l'avvocato Agnelli a volerlo a tutti i costi a Torino. Lo ha visto giocare e capisce che lui è l'uomo giusto che manca alla sua Juventus. Io non lo conoscevo. Quando sono arrivato qua tutti parlano di lui e tutti parlano di lui in bene. E questo è molto, molto importante. È lui che mi ha voluto, mi hanno detto. Sì. E dopo, la prima volta che l'ho sentito è quando ho firmato la C-Sport con il presidente, sì, Boni per il contratto, mi ha telefonato e mi ha detto vinciamo la Coppa dei Campioni. La Juventus insegue il trofeo che ancora le manca nella bacheca e ha deciso di creare una squadra capace di raggiungere l'obiettivo storico della Coppa dei Campioni. Contemporaneamente all'acquisto di Platini, la Juventus mette a segno un altro colpo di mercato, assicurandosi anche il giocatore che in quel momento è il più corteggiato da tutte le squadre, Zibi Boniek. Lo vuole anche la Roma, ma il 30 aprile del 1982, ultimo giorno di calciomercato per i giocatori stranieri, Boniperti vola in Polonia e si aggiudica il giocatore dai baffi rossi, approfittando proprio del fatto che la Roma si ritira dalla trattativa. Per portarlo in Italia, la Juventus deve rinunciare a Liam Brady, dal momento che l'allora regolamento non consente di avere più di 2 stranieri per squadra. Una bella differenza rispetto a come si ragiona oggigiorno. I 2 giocatori arrivano insieme al Comunale di Torino. Li aspettano 5.000 tifosi. C'è confusione, entrambi sono frastornati. Nessuno dei 2 si aspetta un'accoglienza così calorosa. I tifosi li accolgono come la coppia che riuscirà, dopo tanta attesa, a portare a Torino la Coppa dei Campioni. Platini all'inizio, quando è arrivato, dal primo giorno stavamo insieme, mi ricorda, dormivamo in stesso albergo, noi 2 con dei moli, abbiamo subito, siamo presi bene. L'intesa fra i 2 giocatori è immediata. Tutto lascia ben sperare che insieme formino la coppia capace di fare la differenza e rinforzare l'attacco della squadra bianconera. Me l'hai sempre detto tu, basta non alzare troppo il fuoco. sai, per non scontarsi di più. Tanto è solo un gioco come no, va benissimo così, è per divertirsi giusto un po', se poi ci stanca finisce lì. Oggi a Destini Incrociati indossiamo la maglia bianconera della Juventus, dove si trovano a giocare due stelle nascenti del calcio internazionale, Michel Platini e Zivi Boniek. I due campioni sono arrivati a Torino in un bagno di folla e sono attesi sul campo per dimostrare di essere i giocatori necessari alla Juventus per raggiungere l'obiettivo della Coppa dei Campioni. Nella squadra allenata da Trapattoni ci sono anche Zoff, Cabrini, Gentile, Tardelli, Rossi, giocatori che si sono appena laureati campioni del mondo. La Juventus di quegli anni è una delle squadre più forti di sempre e gran parte della forza di quella squadra è da attribuire all'intesa fra i suoi due giocatori stranieri. La nostra intesa viene dal fatto che erano due giocatori assolutamente diversi. Lui era geniale in due metri, nei spazi stretti, era bravissimo a lanciare. Io ero bravissimo a dettare passaggio, a inserirsi in spazi vuoti, a restituirgli anche la palla. Poi caratterialmente io non ero mai geloso di lui, lui era geloso di me e penso che facevamo scopa in due, ecco. Platini è un giocatore di classe. La palla sembra danzare tra i suoi piedi e viene accarezzata con tocchi precisi ed essenziali. Boniek invece è un giocatore più ruvido, possente, e porta in campo tutta quella forza di volontà tipica del popolo polacco, come ricorda lo stesso avvocato Agnelli. Boniek è un grandissimo giocatore e ha le caratteristiche del suo paese. Le caratteristiche del suo paese sono quelle, si diceva all'inizio della guerra, dice solo i polacchi e i finlandesi hanno caricato a cavallo i carri armati tedeschi, ma i polacchi credevano di vincere. Questa è la natura di Boniek. Alla Juventus inizia un ciclo di vittorie che la porta a vincere nella stagione 83-84 lo Scudetto e la Coppa delle Coppe e nella stagione successiva a macinare vittorie che la avvicinano al traguardo della finale di Coppa dei Campioni. Proprio la semifinale del torneo contro la squadra francese del Bordeaux nell'aprile dell'84 rappresenta il punto più alto dell'intesa magnifica che si è creata in campo tra Boniek e Platini. Platini ha sempre sofferto le squadre francesi. Quando giocavamo in coppia con le squadre francesi lui è sempre era molto teso, tanto è vero che una volta giocando in Paris Saint Germain era pronta 2 ore e mezzo, 3 ore prima della partita che già voleva andare allo stadio, lì si è proprio confuso orario perché era molto teso. Ma l'obiettivo di raggiungere la finale è così vicino che in quella magnifica serata a Torino, in uno stadio pieno di tifosi, Platini scrive insieme ai suoi compagni una pagina indimenticabile nella storia bianconera. Vediamo Boniek e gol! Boniek porta in vantaggio la Juventus, 29esimo minuto. Lancio di Platini verso Briaschi, bravo doppio di Briaschi! Boniek, ecco, è stato un po' fuori della manovra per tirare il fiato, adesso rientra Boniek, Platini, 3-0, Platini, tiro al volo di Platini, è il più bel gol della serata, Platini. Con due lanci perfetti che mandano in gol Boniek e Briaschi e il terzo gol segnato proprio su passaggio del suo compagno di stanza polacco, Platini si guadagna il soprannome di Le Roi, il re, con cui viene ricordato da tutti i tifosi bianconeri. Anche Boniek si guadagna l'appellativo di Bello di Notte per bocca dell'avvocato Agnelli, che in un'intervista sottolinea che le partite migliori del polacco sono quelle giocate in notturna, nelle coppe. Magnifico gol e poi in queste partite, come dico sempre, lui di notte dà il suo meglio. Io sulla fascia destra ho preso la palla, ha dribblato 2 o 3 giocatori, le ha dato una palla morbida, lui al volo ha fatto un gol stupendo e poi dopo la partita mi sono inginocchiato e lui davanti a me si è pure inginocchiato, siamo abbracciati come fosse immagine della nostra amicizia, di come ci conoscevamo bene in campo, che io con le mie 2 o 3 finte ho dato la palla a occhi chiusi perché sapevo che là può arrivare solo lui e penso che questo è stato uno dei gol che ridisegna, diciamo, la nostra amicizia, la nostra anche intesa calcistica. Cette nuit, elle m'entraîne dans l'oubli. de ce rêve qui s'enfuit. Destini incrociati. Destini incrociati racconta la storia di due grandi calciatori che hanno trovato in Italia il momento giusto per raccogliere i frutti di una carriera iniziata per strada, come accade a tanti bambini. La storia di Michel Platini e Zbi Boniek. La cavalcata trionfale in Coppa dei Campioni termina con la finale per aggiudicarsi il trofeo contro quella che in quegli anni è sicuramente la squadra più forte del campionato inglese, il Liverpool. Di quella partita, della terribile notte dell'Eisel e del dolore che ancora oggi si trascina sulle spalle degli appassionati del calcio, quello vero, quello giocato, abbiamo già parlato in un'altra puntata. Boniek e Platini, nella tragicità dei fatti di quella sera, lasciano la loro testimonianza proprio in occasione del discusso rigore con il quale la Juventus segna il gol che le permette di vincere la partita. Batte lungo Platini e cerca Boniek. Boniek. Calcio di rigore. Calcio di rigore per la Juve. Sul perfetto lungo lancio di Platini è andato via Boniek, che ha battuto in velocità Ghiletti, mette fuori comunque. Calcio di rigore Platini. Gol. Juve in vantaggio. Il fallo commesso fuori area a danno di Boniek e il successivo rigore assegnato alla Juve sono regali fin troppo evidenti alla squadra bianconera, dettati anche dalla necessità di mantenere l'ordine pubblico. I calciatori giocano una partita vera perché non sono informati di ciò che sta accadendo sugli spalti, dove la furia degli hooligans ha provocato 39 morti. Ma la mattina successiva, come racconta Michel Platini ai giornalisti, per tutti è un amaro risveglio che toglie ogni significato alla vittoria. È stata una notte nera per il sport, per l'Italia, per il Belgio, anche per francese, dove è morto un francese, ma soprattutto per l'Italia, perché hanno venuto per vedere la partita, avevano dei soldi per andare a vedere la partita e sono morti per l'amore della Juventus e del calcio. Dunque noi che facciamo parte di questo sistema, ci sentiamo molto colpevoli adesso che è finita la partita. L'Eisel rappresenta l'unica macchia nella sfolgorante carriera di Michel Platini. È l'unico giocatore di Francia ad aver vinto per 3 anni consecutivi il Pallone d'Oro. È considerato il giocatore francese più grande di tutti i tempi e oggi è presidente dell'UEFA a occupare una delle cariche più importanti del mondo del calcio. Indimenticabili le parole nell'intervista rilasciata alla fine della sua ultima partita con la Juventus. Mi pesa di avere 32 anni, di non poter più soffrire, di non poter più sudare, di non poter più avere la voglia di migliorarmi, e penso che non mi migliorerei più per quello. Dunque quello che vorrei ricominciare è avere 17 anni e ricominciare quella cosa. Bisogna sempre migliorare, non sì, perché era la mia città, state dicendo perché era la migliore in Francia e Juventus perché è la migliore al mondo. L'attaccamento di Platini alla Juventus va a risvegliare i valori più genuini del calcio, non quelli legati al denaro, alle donne, al culto della personalità, come se il calciatore fosse una star del cinema. Quei valori sportivi che sembrano essersi affievoliti nei tempi moderni, ma che Platini, in qualità di presidente dell'UEFA, sta cercando di far insegnare ai più piccoli, a tutti i bambini che si avvicinano a questo sport. Teraz jest Dziuba, Dziuba idź po prawej stronie, Lato, Lato i blisko niego Milekam, doskonale znajomi, Lato do tyłu, do zagrania, gol! Zbigniew Boniek, proszę Państwa! La vittoria della Polonia per 3-0 sul Belgio ai mondiali di Spagna con la tripletta di Boniek ha segnato una tappa fondamentale nella carriera del polacco. L'ottima prestazione sul campo ha convinto tutta la stampa sportiva che la scelta di portare a Torino un anonimo giocatore dai baffi rossi è una delle tante buone intuizioni dell'avvocato Agnelli. Boniek ha avuto un inizio difficile e, come spesso ha ribadito nelle interviste, deve molto al suo compagno di squadra Platini, perché insieme sono riusciti a valorizzare le caratteristiche di ognuno e a diventare una coppia fortissima. Penso che noi siamo un gran collettivo, se anche abbiamo per esempio un Platini, un Cabrini, un Rossi, però credo che la nostra forza è in collettivo. Però, dicendo verità, devo dire che Michel è uno che non si ferma mai, ogni domenica fa gol e... La fiducia reciproca che scaturisce dalla collaborazione dei due giocatori crea un'intesa così forte da portare Platini e Boniek a giocare a memoria. Michel era fantastico nell'inserirsi in seconda battuta, dietro due punte. Lui era molto efficace, concreto, vedeva bene la porta, poi lui segnava non solo su punizioni, perché lui era anche molto bravo a uno contro uno, a dribblare, a tiro da lontano. Lui c'aveva tanti giocatori che in fondo, senza accorgersene, lavoravano anche per lui. Oggi Boniek è un giornalista e un commentatore sportivo. Il suo rapporto con la Juventus è durato 3 anni. Poi è stata la volta della Roma, la squadra a cui Boniperti è riuscito nell'82 a scippare il giocatore polacco. I 3 anni a Roma sono pieni di soddisfazioni e Boniek si è rivelato in più di una occasione una pedina fondamentale per le geometrie di gioco sviluppate da Sven-Goran Eriksson. Dai calci tirati a un pallone per strada ai campi più importanti del mondo sono trascorsi alcuni anni, nei quali Michel Platini ha regalato una carriera ricca di soddisfazioni che però probabilmente non sarebbe stata così grande se non avesse incontrato un altro grande giocatore, Zbi Boniek. Due calciatori così diversi nelle caratteristiche tecniche da riuscire a compensarsi, regalando alcuni dei momenti più grandi della storia del calcio moderno. Io sono un istrione, ma la genialità è nata insieme a me.